Quindi se ci sono, se ci sono regole i relatori, ma io praticamente penso che sarebbe bene prendere un punto di partenza per la discussione sul vincolo, sulla natura del vincolo religioso. Un punto del libro di Prodi che è particolarmente critico su molti aspetti, da un punto di vista, come dire, della lettura, perché vengono precipitati in un punto i tre capitoli centrali dal punto di vista della distribuzione cronologica, cioè quelli sulla formazione stato modello e professionalizzazione, e poi c'è l'altro che secondo me pone un problema grosso dal punto di vista proprio della capacità di capire la natura del vincolo, e parlo solamente del capitolo sulle sette, sui movimenti verificati. Ma io ho l'impressione, francamente, che in realtà quel capitolo dica molto di più di quel che dice, perché in qualche modo mi pare che secondo me quello che è lo schema di chiara motivazione, di autobiografia, della secolarizzazione e anche in un certo modo di intendere l'ideologia politica, in qualche modo lì mostri dal proprio interno i limiti e decisamente la luna là, perché secondo me lì proprio la possibilità di intendere i conflitti, quindi ciò che vede massima tensione, fibrillazione, vincolo, i conflitti religiosi, chiamiamoli così, la possibilità di intendere come conflitti non sostanziali, ecco, secondo me si mostra molto problematico, perché in qualche modo nitidamente si direbbe i conflitti sono sempre conflitti non da sostanze, sono conflitti appunto sempre ricostruibili, formabili in istanze, mentre mi pare che lì il problema sia esattamente che il movimento verticale, quanto prodotto dall'interno di tutti i processi talmente complessi che sono analizzato, non sia in qualche modo riducibile a istanza. Allora lì sarebbe in qualche modo una tensione tra movimento non istanza, vorrei chiamarlo così se mi permettete, e il complesso dell'ordinamento, di cui lo so, dice appunto, in qualche modo sia i riformati che la Chiesa Cattolica hanno lo stesso atteggiamento nei confronti di coloro che riprendono il messaggio evangelico in maniera radicale. Quindi, in qualche modo, la tensione tra movimento, non istanza e istanze. Detto questo, secondo me io mi sono posto un problema e ho detto, ma evidentemente qui quello che va di mezzo in realtà è la natura del catechismo. E allora, se il problema è questo, cioè la natura e il principio stesso del catechismo, cioè esattamente di quel vincolo attraverso il quale poi si dà forma politica, perché io adesso non so, ovviamente non mi metto neanche a discutere con il professor Civiberto, non sicuramente Bruno, ma mi pare che il vincolo bruniano difficilmente potrebbe dar luogo a forma politica, nel senso che siamo abituati a intenderla all'interno di una certa tradizione. E allora, se vincolo e forma politica si danno, e si danno, come sappiamo, con lunghe tradizioni, lunghe letture, sulla base della Chiesa, che è il prototipo, l'archetipo, se volete, della forma politica come tale, allora mi dico, insomma, il principio del catechismo evidentemente ha a che fare. Appunto si snoda su questo conflitto tra non istanza e istanze, e questo diventa un punto critico. In effetti, e qui ci sono parecchie idee da fondere, perché il principio, come dire, moderno, non è fatto destinare, come sappiamo, è prodotto di una crisi, e qui evidentemente entra in gioco una serie di problemi. In primo luogo, il vincolo, appunto, per riprendere i punti del professor Silvestro su Bruno, mi pare che la definizione, ad esempio, della legge come vincolo non possa prescindere poi da quella che è ovviamente la fondazione metafisica che la attraversa. Di fronte a cosa ci troviamo, secondo me? Secondo me c'è il problema di come si può definire vincolo religioso e forma politica al di fuori del catechismo. Più o meno, secondo me, allora, il problema è che in Bruno c'è questo, però secondo me il problema è anche l'esito che poi se ne andrà di lì a poco in Leibniz. Cioè nella massima rigorizzazione, formalizzazione metafisica del tipo di problemi che passato dalla soglia epocale anche con Bruno e poi anche con Cusano, figura veramente poco pensata nei tempi, appunto un po'. Ad esempio, io appunto sono convinto che la fondazione metafisica del vincolo, o del condanne, che parla esplicitamente di vincolo sostanziale, quando parla del vincolo tra modo di dominante e modo di dominante, di fondo discorso sul dominio, sulla forma del dominio, che è molto interessante anche dal punto di vista strettamente politico, ecco, mi pare che in qualche modo non possa prescindere da quella interiorizzazione della separazione, che è fondamentale, che è costitutiva per poter pensare a un vincolo come vincolo religioso. Allora, se questo è vero, non si può non pensare come in realtà il vincolo bruniano, cioè la simpatia che tiene unito il tutto, l'universo, la simpatia che tiene unito il tutto, in realtà forse, questa è una domanda, esiste proprio la negazione di quella separazione che è proprio invece del pensiero del sacrificio, chiamiamolo così, e soprattutto esige la critica di quella figura concettuale importantissima che secondo me ritorna come sfondo, anche con un po' dato nel lavoro di Prodi, che è il tema della persona. In Bruno la critica della negazione cristica è una critica della persona. In Bruno? La critica della mediazione del Cristo è la critica esattamente di ciò che è persona. Allora, mi domando, è possibile che qui si aprano degli spazi in cui rimando del diritto a quel nucleo, diciamo, intangibile che si può definire, anche se via approssimativa, come persona? Si aprono degli spazi qui che vanno forse in altre direzioni. Ma io penso che forse si potrebbero qui comunque recuperare altre vie, provare a cercare criticamente, a pensare criticamente altre vie che sostanzialmente permettono di pensare il vincolo come quella forma come dire, di formalizzazione metafisica della forma politica, appunto, oltre l'epoca del Capello. E qua mi risulta forse non del tutto strano quella tradizione che con Cusano, anche con Meister Eckhart, pensa certamente alla figlia, la sofia e la prudenza come appunto la forma di saggi. Io sono convinto che, però lo dico come una provocazione consapevole, che nelle proposte finali che sono Prodi, di fronte in realtà al blocco delle teorie contrattualiste moderne, ripensare la storia del giuramento politico può servire a rielaborare continuamente il rapporto con la politica, quindi il rapporto tra contratto e forma politica, non sociale e forma politica, forse si allude a questa relazione sapienziale, quindi evidentemente forse la storia del giuramento politico rappresenta in qualche modo l'apice. Continuiamo con gli altri interventi, poi sono anch'io. Io ho un parlare che voglio fare più che altro da un'osservazione brevissima, che cioè, ho visto che è uscito, che è stato sottolineato sia da Civitello sia da Russo, questa tradizione, no, che sa lasciare a voi dell'estero, e che più o meno che la tradizione della prudenza. E mi ha colpito perché della dottrina della prudenza. E mi ha colpito perché la tradizione della dottrina della prudenza è uscita fuori in relazione sia alla, diciamo sì, alla possibilità, se ho capito bene, di Gilberto, di pensare non solo il dualismo, il problema del dualismo, il problema del vincolo all'interno della tradizione del Christian, ma anche all'esterno della Chiesa. E questo anche da parte di me. Ora, la mia opzione, la mia, il problema che mi vede era questo. La possibilità di pensare, di pensare il vincolo e il dualismo al di fuori della storia del cristianesimo e delle vecchie scelte. Però mi chiedo, c'è una realtà storica in cui questo pensiero si è ampliato? C'è la società degli atti virtuosi, è una società che è pensata, o è una società che è storicamente indagabile? Allora, io da questo punto di vista mi sembra che si può anche pensare un dualismo e un vincolo al di fuori della storia cristiana, ma è un pensiero che comunque non esce da questa idea, e quindi si dovrebbe vedere che relazione c'è tra questo pensiero che tende a fuoriuscire e il rapporto di fatto che invece voleva in questa storia. E questo direi anche nel discorso quando Gilberto si diceva appunto agli egiziani, perché lo possiamo sempre rivolgere, come dire, riportare al problema del giudamento già detto di nuovo testamento. E cioè dico che il problema del storico filosofico si curva in un certo modo se leghiamo il problema al processo di ma è su questo che si dice e appunto sentivo su questo fatto qui e non ho capito perché bene, perché stavo pensando io e così, però è adesso. Cioè mi pare questo a me, che oggi si è parlato molto degli stimoli che per persone di Prodi produce riguardo ad una fondazione, se detto, metapolitica della politica, eccetera, ecco, certo che quello sarà vero. Però io ho un altro problema, e si riferisce proprio a queste ultime cose, se è onesto, però sono un numero più se in accordo con lui, quindi, questo lo vediamo adesso. E cioè, secondo me il problema che Prodi uno dei problemi che poi solleva, semmai, è quello della, mi pare essere quello della, di una fondazione preistorica della politica. Fondazione preistorica della politica. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo obbligati a ragionare di politica storicamente, questo è un vincolo, insomma, è un obbligo che noi abbiamo come uomini della storia del XX secolo, dell'Occidente moderno, cioè della storia. Non riusciamo a pensare alla politica di fuori della storia, perché giustamente la politica è un cambiamento storico. Cioè, entriamo in questa logica qui, no? Che la politica è il grande evento della storia intesa come una forma di vita, di esistenza e anche di conoscenza che non è universale ma che è tipica di una cultura ben precisa che era la cultura dell'Occidente e che era la cultura della modernità. Quindi io parlo di una storia precisa, della storia della storia, la storia. Allora, la politica noi la dobbiamo per forza, siamo obbligati a concepirla in rapporto a questa dimensionalità storica. E lo sforzo che provo di fare è quello di invece anche, secondo me, per me, oggi è quello di dire: guardate che però per capire bene questa politica anche nella sua storicità, noi dobbiamo cercare di capire se ci sono delle più che fondazioni, delle condizioni, cioè così, preistoriche per l'avvento della politica. Ecco, e questo per me è un fatto molto importante, perché è un fatto che mi sposta dal piano delle istituzioni e della loro storia al piano della, appunto, dell'uomo, della persona. Della persona come fatto che non è più storico, ma è naturale. Allora io ho il problema di andare a vedere se questa politica, che è un fenomeno storico, che è un evento storico, è un evento storico e può essere un evento storico per il fatto che dentro in questo dato naturale della persona ci sono a un certo punto delle ragioni che spingono alla politica. E qui secondo me si innesta fortemente tutto questo discorso che entrambi avete fatto, che lui soprattutto ha sottolineato, facendo ricorso a questi criteri che sono importanti, ma sono ancora, secondo me, come posso dire, approssimativi, insomma, no, della tradizione ottimistica e della tradizione pessimistica. Perché qui in fondo sta, mi pare, un po' il segreto della politica. Anch'io sono convinto che sia necessario rivedere la impostazione tradizionale, che è quella che poi ha prodotto anche tutte le tematiche, le storiografie, la recitazione, la storizzazione, di che è la visione, se vogliamo così, scolastica, insomma, no? Questo ottimismo che attraversa il trattato dell'Occidente, anche la storia della politica, eccetera, e sia invece necessario farsi davanti agli occhi ogni volta che si apre un testo, riprendere la grandissima presenza, secondo me predominante presenza invece della tradizione stoica, della tradizione classica di Cicerone, della tradizione agostiniana, ma nella versione che poi dopo viene usata laicamente, insomma, durante tutta l'età medievale. Ma questo qui è più che una, diciamo così, linea pessimistica della storia dell'esistenza umana, e mi pare l'unica possibile curvatura che la riflessione sull'esistenza umana può avere nel momento in cui la si riferisca, la dimensione umana, appunto al dato naturale della persona. Cioè il dato naturale e preistorico della persona, a mio avviso, non può che incernirarsi sopra questa opzione che è di tipo, diciamo così, diciamo ancora, questa non è un'altra, insomma, una questione approssimativa, nota pessimistica. E allora, rispetto a questa nota pessimistica relativa alla persona, che a mio avviso si può capire meglio le ragioni di queste le ragioni preistoriche della nascita della politica, perché è rispetto alla insoddisfazione naturale che l'uomo prova di fronte alla sua dimensione di persona che scattano motivi per andare alla ricerca di vincoli, cioè per andare alla ricerca di patti, transazioni, di accordi, di discipline. E il giuramento, da questo punto di vista, effettivamente occupa un posto centrale per il fatto che riesce per un certo periodo di tempo a accompagnare l'evoluzione in direzione istituzionale di questa uscita dell'uomo dalla persona non storica, accompagna questa fase istituzionale della produzione dello Stato moderno, che è questa roba qui che è l'età del feudalesimo, insomma, eccetera, l'accompagna però con istanze di tipo, non so dire se sacrale, definitivamente magico, insomma, che erano già presenti nella situazione, appunto, preistorica. E il segreto, uno dei segreti della forza che il giuramento tiene a palesa, insomma, e realizza anche, no? Nella fase della sua vitalità, cioè fino al 600, sta in questa capacità di combinazione di un momento preistorico della politica con il primo momento storico, cioè istituzionalizzato della politica. A me sembra che il libro di Prodi sia un libro, appunto come veniva rilevato prima, estremamente denso ma anche molto compatto. È un libro senz'altro che tratta del potere, perché qualsiasi libro che tratta della lotta per gli statuti e per le costituzioni è un libro che tratta del potere. Mi sembra però che non sia stato rilevato questo fatto, che secondo me è fondamentale. Adesso io non voglio fare delle citazioni di carattere storico e nemmeno fare delle citazioni di carattere filosofico. Mi interessa solamente mettere in rilievo quella che è la struttura del libro e il movimento del libro. Allora, quando il giuramento coincide con il sacramento, abbiamo il giuramento di uno dei tanti incarichi di Ippocrate, di Tagora, e il giuramento che coincide con il sacramento è il giuramento di Dio. Questo dice Bellarmino. Poi abbiamo un altro momento in cui il giuramento si stacca dal sacramento, ed è il giuramento che fanno le società di Medioevo, i movimenti comunali. Quindi abbiamo una fase in cui il giuramento coincide con il sacramento e una fase in cui il giuramento si stacca dal sacramento. Vale a dire che i giuramenti politici appartengono a un'altra sfera in cui il sacro si separa dalla politica. Abbiamo una separazione fra sacro e politica ad opera del giusnaturalismo, del contrattualismo, che separano il diritto e la politica dal sacro, quando invece i testi sapienziali, come ad esempio i Salmi 149 o 150, secondo da che prospettiva li si può vedere, i Salmi fanno coincidere la giurisprudenza con la sapienza. Giurisprudenza e prudenza. Però il movimento del libro è un movimento paradossale. Bisogna ricordare il filo conduttore che fa andare avanti tutta la produzione di Prodi, che appunto sono fondamentalmente la lettera di Agneto, la doppia appartenenza, la doppia fedeltà, e poi la sua riflessione che lo accompagnerà sempre sulla teologia politica. E quello che scrive anche Smith, la leggenda di una liquidazione della teologia politica. Quindi il movimento del libro è un movimento che però a un certo punto è paradossale, perché quando crediamo di avere, come dire, espulso il sacro dal diritto della politica, il sacro, e qui appunto abbiamo il periodo della rivoluzione francese, che aver espulso il sacro dalla politica e di aver relegato il sacro dall'ambito del diritto pubblico all'ambito del diritto privato, cioè nell'ambito della sola coscienza, ecco che secondo Prodi il sacro ritorna e lui fa gli esempi dell'incoronazione del primo Papa, del sacro, della cerimonia del sacro, anche se non come viene fatto durante il sacro romano impero. E poi ancora cita appunto questi personaggi che sono abbastanza paradossali, che sono Schmitt, Carl Schmitt, Jean-Paul Sartre e Cantorò. Quindi, allora, chiaro, prima il giuramento coincide con il sacramento, poi dopo il giuramento non coincide con il sacramento, si stacca dal sacramento, poi a un certo punto abbiamo un movimento civico tra sacro e politico, per cui il sacro ritorna dentro politico, secondo me. Perché appunto Prodi è fedele alla lezione di Iedin, di Kantorowicz e di Carl Schmitt. È uno delle perle di Carl Schmitt, è proprio questa sua affermazione sulla leggenda di una liquidazione della teologia dell'ambito della politica. C'è qualcun altro che dice delle parole? Intanto, relativamente al libro di Giorgio, già che ci interviamo un momento, noi ci perdiamo. Cioè, qui il problema, secondo me, non credo fosse quello di esporre, almeno come ho capito io, la trama e la struttura. Il problema mi sembrava fosse essenzialmente quello di utilizzare diretta e croce questo lavoro come strumento di nuovo lavoro. C'è una pagina molto bella con cui Croce chiude la filosofia della pratica e dice: io così presento questo lavoro come lavoro che produca un lavoro, io così l'ho interpretato. Dunque l'ho messo in relazione ad alcuni punti sui quali avevo maggiore interesse, quindi una maggiore disponibilità a intendere in qualche modo. Poi è stata tutta la richiesta straordinaria del libro di questo. Volevo cercare di dire qualcosa a proposito di quello che diceva il primo amico che è intervenuto a proposito di questione lineare, che mi sembra che lei conosca benissimo. A me premeva fondamentalmente una cosa, devo dire. E una volta metti nel lento un punto, proprio per discutere per Prodi costruisce una storia, quella del giuramento, quella del patto giurato, del vincolo, inserendo pienamente nella storia dell'Occidente cristiano, per intendersi. E credo che abbia veramente ragione nel porre questo punto. A me premeva di mostrare come questo Occidente cristiano sia dentro di sé, cioè è complicato, non bisogna dirla proprio, conoscendo quello che dice nel libro, le tesi che sostiene nel libro. E da questo punto di vista, Bruno mi sembra davvero paradigmatico, per un punto, perché a mio giudizio, se lo dovessi definire, direi che non c'è sicuramente nel Cinquecento pensatore più radicalmente anticristiano. Questo è il punto sul quale dobbiamo muovere. Non c'è pensatore che più radicalmente contro la tradizione cristiana, con un rovesciamento completo quasi di Agostino, della filosofia della storia di Agostino, di Paolo, di Lutero e di Aristotele. L'interesse che abbiamo venuto leggendo appunto di proprio in relazione a Bruno, è che anche un pensatore così radicalmente anticristiano si pone talmente intensamente il problema del vincolo da dedicare un trattato alla questione del vincolo. Questo vuol dire che siamo fuori della storia cristiana? Io credo che sia un modo bizzarro, ma la questione è abbastanza rossa da questo punto di vista. Vuol dire che siamo all'interno di una storia nella quale ci sono una pluralità di facce. Come dire, Bruno è l'altra faccia di questa storia, per questo motivo. Io non ho bisogno di staccarlo da questa storia. Lo metto dunque tutto dentro questa storia, ma sapendo appunto della pluralità di linee che stanno dentro questa storia e della pluralità di strutture che costituiscono quell'universo complicato che noi siamo soliti chiamare il moderno della modernità. Il moderno della modernità sta con una pluralità di strati, linee, eccetera, eccetera, e in cui c'è anche una pluralità che è in realtà Bruno, perché naturalmente Bruno sarà poi fino a Toma, fino a Londra, in cui si vendevano copie dello spaccio della veste truffata a grandissimo prezzo di Aristotele. Questa a me premeva bene le idee. Naturalmente credo di sapere abbastanza bene, mi illudo di sapere abbastanza bene, che il vincolo broniano non si dà come la forma politica moderna, immediatamente come la forma politica moderna. Intanto per quelli che sono i rapporti, diciamo, fra Bruno e le strutture costruttive del moderno, che sono altra cosa del pensiero di Bruno, e che non vuol dire che Bruno non appartenga al moderno. Ma certo non è in questi termini che si pone il problema. Tra l'altro avrei difficoltà enormi, e non per nulla non c'è nel testo di Prodi, a collocare da questo punto di vista Bruno in una storia di costituzionale, diciamo così, no? Perché non è quello il suo luogo, naturalmente. Questo lo do abbastanza per scontato, perché uno potrebbe dire, ma non c'entra questo tipo di storia. Allora io dico, ma l'interesse di un tipo di storia come questo, di metterli in tensione anche con quello che non c'entra, e cercare di farmi vedere se mi aiuta a capire anche quello che apparentemente non c'entra, che capire e individuare un punto di vista in qualche modo non ascoltare, in qualche modo in attesa. Allora chi può essere divertente? Bruno, non c'entra nulla. con una storia istituzionale che non è ovvio, c'è delle sede, che non è accuso, che non è tutti quelli che sappiamo, su questo punto cosa c'è? Naturalmente, quel vincolo non è la forma politica come il nostro amico ci organizza. Uno tuttavia ha, con grande estesa, appunto dicevo, la questione del rapporto tra il vincolare e la politica, tra il vincolare e il fare politica. Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, si vincolano di nuovo il grande capo, il grande re, il grande capitano, e colui che sa vincolare. Vincolare vuol dire avere a disposizione molto sapere, perché bisogna tanto avere sicuramente il sapere magico a disposizione, per ripetere la cosa che diceva Pierone e tutte altre cose. Qui abbiamo a che fare anche con la magia, il politico deve essere un mago, del resto i filosofi, i grandi filosofi rinascimentali, alcuni grandi filosofi rinascimentali, cosa sono se non mago? Come si propongono se non come mago? Da questo punto di vista, dunque, vincolare significa fare politica, vincolare e governare. Cosa vuol dire questo? Che per uno il vincolare dal punto di vista della politica si risolve nel dominio, cioè nella soggezione. È un dominio che mira solo alla soggezione. C'è anche questo in Bruno, ma non c'è solo questo. Se ci fosse solo questo, io non capirei perché Bruno fa l'elogio, per esempio, di Enrico Terzi di Francia. E presenta Enrico Terzi di Francia come modello del principe cristiano. Ma qual è il problema del principe cristiano? È di essere fedele a quelli che sono i precetti del Nuovo Testamento, cioè a quelli che sono i precetti appunto della tradizione cristiana nel suo livello primario, per dire è come le cose sono complicate. Ma cosa sa il re cristianismo? Sa che è scritto, e quindi usciamo fuori dal fatto che dovete testamentare per rispondere al mio amico questo. Beati pacifici, beati veri, beati mondi di cuore, perché di loro il re dice, il re, grande re, è colui che ama la pace, conserva quanto si può il suo popolo diretto, non gli piace i rumori e bla bla bla. Cioè, il suo problema è quello lì di essere appunto produttore di pace adesso, qui è razzismo. Quindi non è un dominio che si dà con una soggezione, eccetera. Anche perché il vincolo fondamentale per lui, e qui nuovamente fuori evidentemente della storia costituzionale, è il vincolo d'amore. Il quale vincolo d'amore è il principio della comunicazione universale. Come funzionerebbe la comunicazione universale se non ci fosse questo movimento di positivo e di negativo, di straordinaria simpatia e antipatia, ma di cui il collettore fondamentale appunto da questo punto di vista l'amore. Allora, il mondo che funziona, il mondo veramente vincolato, il mondo veramente pieno d'amore è il mondo giovane, il mondo di decisione da questo punto di vista. Il filosofo deve essere l'informatore religioso. Qui sarebbe interessante vedere le cose che lei diceva a proposito di bellissimo capito sul proprio. Il filosofo che vuole svolgere fino in fondo la sua funzione di filosofo deve farsi riformatore religioso e attraverso la riforma religiosa sarà in grado, come diceva il lamento di Internet, di riportare appunto il mondo all'antico mondo. Ma se non deve fare riformatore religioso, si deve fare riformatore religioso per questo punto, deve ristabilire appunto il vincolo universale. E qui appunto ritornando al testo che dicevamo precedentemente, qual è secondo me il dato interessante di questa cosa del metabolismo, eccetera? Bruno ha nello spazio nettissimo la persuasione che la direzione della legge pone il problema metafisico, si dà l'interno del quadro metafisico, cioè che io non la posso, come dire, definire la direzione della legge su un piano che è, sono inteso quello che lei voleva dire su questo punto, su un piano in cui la legge si spiega con la legge umana. Lì si pone il problema di una determinazione metafisica, la determinazione della legge come vincolo non può darsi al di fuori di un quadro metafisico. Fenduno su questo non c'è assolutamente dubbio. La grandezza dello spazio, secondo me, è su questo, che è una grande riflessione di tutto il pensiero di Bruno. È una grande riflessione in cui il tema della legge è esplicitamente posto in questo modo qui, stabilendo un rapporto fra la legge umana, fra la legge naturale e la legge divina. C'è un rapporto stretto fra queste destre, fra queste, all'interno di quella dinamica di assolutezza e di comunicazione che per Bruno non si supera mai. questo è un punto decisivo di questa ragione, che può essere in qualche modo interessante all'interno di una riflessione a ruota libera fatta sul libro di Bloch, che lì non ci si trova mai di fronte, come dire, a un uomo che può mai interamente sacralizzarsi. Cioè, quell'uomo, al massimo della sua esperienza, non si realizza mai come sacralizzazione piena, nemmeno a Teone. Degli eroici suoi si fa occhio, tutto occhio all'orizzonte, vede tutto come uno, ma non vede mai l'occhio. E a questo punto di vista c'è un nere di fondo. Bruno non poteva mai essere messo all'interno di coloro i quali pensano alla sacralizzazione della cultura. Lo stesso Dio, come dire, è tutto quanto dentro l'uomo, ma non è mai un Dio assoluto dentro l'uomo. Stiamo sempre alla dimensione dell'ombra. Ombra l'universo, ombra l'uomo, ombra la conoscenza dell'uomo, questa è la dimensione. E qui da questo punto di vista è interessante, perché questa tematica assoluto comunicato può essere utile all'interno di questa pluralità di rapporti tra cristianesimo e correnti non cristiani, eccetera, eccetera, che nascono all'interno del cristianesimo. E questa è la questione bellissima. E certo, Bruno, se deve andare a vedere, poi vedremo, è toccato, fate parlare di queste cose, non la scendere. Ma come dire, lui quando sta di fronte ai giudici, ma si pensa che tu è con la persona, non sta. E allora lui si arrampica con Ario, con Agostino, ma dice perfino Agostino e riesco te. Tuttavia io credo che sia un problema sul quale meriterebbe fare la riflessione, anche all'interno poi delle problematiche che stanno sullo sfondo di quel prodotto. Cioè, io non credo che l'idea che Bruno ha, il concetto che Bruno ha della persona sia ritraducibile nelle interpretazioni di matrice idealistico, idealistico in senso forte, di spavento, quello di Hegel, eccetera, eccetera, che stanno ancora fra di noi quando parlano di Bruno. Io non credo che cosa stanno facendo. Bruno, a mio giudizio, è capostipite almeno due tradizioni, di una tradizione che effettivamente lo dissolve. L'individuo e la persona, per utilizzare questo termine che appartiene meno al mio vocabolario di formazione. Ma al tempo stesso lui ha, come dire, è un, e qui si potrebbe venire alle cose che diceva Piero sul preistorico, eccetera, eccetera, ha un sentimento straordinariamente tragico della transitorietà della persona, della irripetibilità della persona. E in questo senso ha una vicenda estremamente tragica nel processo. E non è affatto vero quello che dicevano i filosofi idealisti, che lui era tutto contento, insomma, alla fine si rassegnava a morire perché lui era la sua filosofia. Lui si pensa portatore di una filosofia, ma non si identifica con la sua filosofia in questo modo, perché sa, come dice De Furoni, che lui non è la felice, la quale è stata e sarà. Lui sa che è e non sarà più. Felice. Quindi vuol dire che su questo tema della persona, proprio come condizione, no? Dice lui. Lì c'è una importante questione che è una tragicità. Non c'è assolutamente nulla. Che è un'esperienza di tragicità, perché lui non sta come pessimismo. Cioè lui dice, e come devo, perché devo essere pessimista perché se io credo la vicissitudine? La vicissitudine mi dice, lui dice, che oggi sono morto, domani vivo. Che oggi sono nell'infelicità e domani nella felicità. E dunque chi è il sapiente? È colui che sta nell'indifferenza, il quale stando minimamente, massimamente allegro, sa che non deve, deve essere allo stesso tempo minimamente felice, perché se sta interamente alla felicità, questo è un ruolo che il vincolo può avere per aiutare l'individuo persona in qualche misura a non ridire il risultato di felicità e a portarlo verso l'indifferenza. Io così lo presento Bruno su questo e dico che la vicissitudine, l'idea di vicissitudine serve precisamente a questo. Quindi guai a dire ah come sono felice, allora stai proprio per commettere un errore. Ah come sono disperato, allora non stai capendo dove stai. Non sei un sapiente. E questa è la differenza tra il sapiente e il furioso. Ma il furioso per l'appunto mi porti in un luogo, come vero sapete di me, che non sta nell'indifferenza o nell'esperienza quotidiana ordinaria. Non sto dicendo ordinariamente, ma la vita del filosofo non è la vita ordinaria. E quindi mi porto un'altra dimensione in un'esperienza che non ha a che fare con questo tipo di vivere, eccetera. Quindi su questo punto qua, ma poi potremmo discutere in altri modi su queste cose. E penso che faccio una considerazione interessante. cristiana in qualche modo, ma li possiamo vedere solidificati nella pratica in qualche modo, se ho capito poi in essenza, in fondo, eccetera. Io credo che il lavoro, facciamo riferimenti di lavoro, Warburg, Yeats, Hermetici, Ermetismo, Burger, Hermetici, eccetera, abbiano dato un contributo lì, anche nel libro di prosa, delle cose interessanti. Quando tu parli della massoneria, beh, una lezione in qualche modo anche da qui, quindi voglio dire, su questo punto qui credo che si potrebbe abbastanza lavorare. Ma ecco all'ultimo punto, che era quello che sottolineava Piero. Ma e il problema, se ho capito bene, questo rapporto, la dimensione preistorica della politica, no? Tu dicevi in qualche modo la politica, piuttosto che parlare di fondamento metafisico della politica, mi pare che tu dicevi questo. Al di là del termine persona con il quale io ho un rapporto di una certa complicatezza, voglio dire, io credo che le cose si possono mettere in questi termini e ci si possa anche vedere questo, se ho capito bene, alcune cose di prova. Bene, questa è la vicenda della politica nell'Occidente europeo. Ma la politica e questa politica risolve la storia. Ma la politica e questa politica risolve la persona. E allora si viene appunto. Io lo trovo interessante alla luce di un'interrogazione di questo tipo anche. E quali sono oggi, per quello che intendo io, ma qui vengo sul terreno mio, quali sono oggi le condizioni di possibilità di un ripensamento della politica che vada oltre l'esito della politica moderna che è, come dire, stata consumata e poi distrutta da questi processi di sacralità? Questo è il punto. Quali sono le condizioni di possibilità oggi di una politica che vuole andare oltre questo esito? A me questo interessa. E ciò mi interessa di più proprio per rispondere a un amico che interveniva prima su un altro versante, che mi pare, adesso che mi sbaglio, che lui anche di questo vuole ragionare. Ne vuole ragionare sullo sfondo, fa un bellissimo libro di storia, ma mi pare che ci sia anche questo tipo di problema. Questo tipo di problema per me è straordinariamente importante, come è importante il rapporto fra preistoria e politica che scoprendo, su come sta la politica in relazione a quello che sono i direbbe Swimmer, la complessità dei cerchi delle esperienze di un uomo che non si risolve al cerchio della politica. Noi abbiamo capito, abbiamo visto che quando si risolve nel cerchio della politica abbiamo quello che abbiamo avuto. Questo significa cancellare la politica, non la possiamo fare, io credo, per quello che dicevi tu, perché la politica è storia. E allora non lo facciamo. Però la storia non è obbligatoria. Ma la storia non è obbligatoria. E poniamoci allora il problema di una condizione di possibilità della politica e della storia che non stia di fronte a noi come un destino obbligatorio. Se le cose stanno divinamente così, allora a me interessa riflettere su questo problema di con io non sono in grado di farlo, non ho nessuna difficoltà di come storico costituzionale, perché non è il mio mestiere, cioè apprendo quello che dico. Però quel problema lì per me è un grande problema. È un gran problema oggi che mi hanno permesso di fare quel riferimento a Monet, che io lo trovo straordinario da questo punto di vista, l'individuazione della determinazione di condizioni di possibilità di uno sguardo dal basso. Secondo me quella è la prima condizione di possibilità, è la condizione delle condizioni di possibilità che si guarda dal basso. Se noi guardiamo dal basso il piccolo, allora forse cominciamo a porci il problema di una ricostruzione della politica democratica e di uscire di un arrovesciamento di un tipo di politica che, facendosi tecnica, è diventata tutt'altra cosa, ponendosi in un atto che non ha nulla in comune con l'atto di cui si parla in questo libro. Allora perciò per me questo libro è un libro importante e mi ha interessato. In questo senso qui l'ho trovato straordinariamente interessante in questo tipo di intrecci, tanto più perché noi ci troviamo di fronte, e veramente chiudo, all'esaurirsi di tradizioni che possono appartire anche alla mia. Io, l'amico Prodi ha scritto un bellissimo libro, l'almeno studente, ha detto il suo bellissimo libro su Paleologi, però io studiavo appunto invece Bruno ed ero un Caravaggio e non con le cose che fanno oggi, diciamo, sulla pittura, se posso dire così. Sono adesso si scopre che stanno di 30 anni che non erano poi così. Vedi il tuo video di Bene. Vedi almeno chi così andiamo a fare a chi stiamo parlando, ma lui non a Bologna, no, che dice il contrario, dice il contrario, però dice su queste cose io credo che qui ci si possa stare a ragionare e perciò io sono venuto molto felicemente a descrivere il mondo. risposto così bene che io insomma così concludere con lui, no? Sono un po' gran parte delle domande che ho fatto a lui, un po' una parte delle domande che avevo detto a tutti, diciamo, c'era di lui, c'è una risposta dalla quale non posso che aderire, tra l'altro allo spirito, diciamo, diversa da Nicola, mi sembra di confermare che cose era quello appunto di, diciamo, trovare questa traccia, questo stimolo fortissimo, densissimo, intensissimo del libro di Nicola. Che era davvero delle cose più belle che avrei con piacere finalmente negli ultimi tempi, e non solo negli ultimi tempi. E quindi si tratta, a proposito di questa cosa, per gli stili che viene, naturalmente perché c'è del riferimento dall'altro, quale cose di cui in qualche modo, da qualche misura più competente, insomma, una certa destinazione di pubblica, ma se questa causa non c'era, di aver non sapere che ci sarebbe stato, che sono molto contento, diciamo, quello del libro medesimo, insomma. E quindi, su questo, diciamo, non mi pare che dovevi aggiungere altre cose. Una delle cose di cui si è parlato è questo film del vincolo, della prudenza, o di questa tematica appunto sacro-politica al di fuori e al di fuori della storia del cristianesimo. La traccia si chiamava Viaggiare libro di Grofz, è una storia molto più ampia all'interno della quale naturalmente il mutamento epocale prodotto dal cristianesimo cambia le cose, e tutto ciò che verrà detto dopo questo mutamento epocale non sarà mai uguale a quello che avrebbe potuto essere una volta che questo mutamento epocale c'è stato. E questo mi pare che sia l'occhio di cose che ha detto, evidentemente, diciamo, anche sul merito, su una proposta di Bru. Perciò è interessante a me leggere qualsiasi altra cosa, anche a partire da, diciamo, da quello che ero stato a faccia, per nulla o pochissimo che vede da quale tipo di misuramento, per implicare attorno a questa traccia anche altre cose, per cui tutto è veramente si trasforma. Nello stesso tempo, diciamo, si possono fare anche, diciamo, studi paralleli percorsi. Evidentemente, diciamo, prima del cristianesimo, già nello stesso tempo, Polibio, che viene citato sempre come l'autore accanto di Epicuro, più che Epicuro, che diciamo che ipotizza una società di altre cose, lo stesso che dice, però stiamo attenti, in fondo, viva i romani, che sono riusciti in ragione della loro superstizione ad istituire, diciamo, istituti, diciamo, una storia imperiale molto più ampia e fortunata di quelli che avrebbero riuscito a fare i sapienti greci. Quindi già comincia a porre, diciamo, questo tipo di alternative alla quale è riuscito qualcosa, è l'idea dell'ipotesi delle armi virtuose, è l'idea, diciamo, della quantità sociale, del timore di ogni vita. E poco fa lo accennava Cicerone per questa stessa già ambiguità, l'ambiguità è molto forte nelle cose, perché tra l'altro già prima del cristianesimo i processi tra sacro e poteri, tra sacro e poteri sono molto ampi. Se fossimo, andassimo al diritto di quella stessa nozione che io ho citato, e andassimo all'idea della scienza come teoria, e poi sapete che esiste una tradizione critica, forse eccessivamente focalizzata, che vede dietro, diciamo, lei lo stesso della teoria, cioè non tanto nel vedere, l'osservare, ma la masceria sacra, Theoros, quindi non solo dietro Cosmos, c'è cioè, quello sacro, la processione del tempo, ma c'è addirittura dietro Theoros, che significa addirittura Aristotele, l'ideale della contemplazione da dove viene, se non da un momento conoscitivo che ha dinanzi a sé il tempo, ma il tempo che cos'è se non quella nozione del ciclo, diciamo, nella quale si osservavano i fenomeni, gli eventi, oggetto degli auspici. E allora c'è la completazione già di qua, figuriamoci quello, solamente che dopo la completazione non può che essere estremamente forte, cioè insegnata molto per tutto dal cristianesimo. Dietro poi ci sono anche altre cose, perché uno degli autori che non abbiamo citato oggi, ma che veramente dichiaratamente esplicitamente dietro questo testo, che è in modo ricchissimo, ripreso, confermato, altre volte rinnovato, è Max Weber. E qui ci sarebbe poi, diciamo, da fare un lavoro di analisi comparativa in qualche modo tra l'istituto anche del gioco che viene alla luce ogni tanto in modo molto chiaro e lucido nelle pagine di Prodi, ma diciamo, potrebbe essere chiamata ancora a proposito per una mancata sacralità della politica, la traduzione della tradizione confuciana dentro il buddismo, per esempio, di una giurisdizione del politico aperta semplice annoverare potente dei saggi, anche se resta il momento della sacralità dell'imperatore e così via, non ci induce a pensare che al di fuori della tradizione occidentale ci sono tantissime altre scuole con la competenza naturalmente persone che non siano assolutamente diciamo il sottoscritto. Allora sicuramente dopo il cristianesimo non avviene le cose, però molto e quindi anche tutti quei segni, quelle tracce, quei libri che sembrano andare nella direzione opposta, in effetti vivono diciamo fortemente in una serie di elementi, però sempre di meno che un po' da studiare nella concretezza dell'evento storico ideale, nella presenza di diverse tradizioni, tra le quali diciamo grossolanamente, insomma, io evocavo naturalmente quelle di un'antropologia, di due antropologie differenti, delle quali la prima non è solamente un'antropologia di matrice stoico ciceroniana, ma è un'antropologia la quale trovo diciamo, nel grande edificio tomistico. Diciamo, il modello di una partecipazione della ragione umana, quindi dell'ex naturale, dell'ex terra, che è, insomma, sostanzialmente è un elemento importantissimo. Una delle cose che mi viene a dire è che in qualche modo questa traccia proposta invece ci porta, ci spinge sempre più in direzione dell'altro filone, che è per quello poi. E diciamo che da tanti punti di vista, dal punto di vista del diritto, della politica, della storia del pensiero e della storia della nozione di ragione, ci porta a contatto con la modernità, la linea diceva costumistica, camistica, la linea modernista, la linea logica e così via. Ed è la linea che a mio parere appare più fruttuosa anche quando indaghiamo questo tipo di ambito. Tanto è vero che sono stato costretto per parlarne a mettere assieme a quello che sembrerebbero lontani, e anzi sappiamo qua da tempo che non sono lontani. Come Montaigne, Charron, o i Muri, Nicola, Lucio e così via, alla matrice di questa linea che conduce sostanzialmente come fondo all'insegnamento del mondo, e anche queste delle cose paradossali, una dimensione nella quale questo c'è il problema poi alla fine di che cosa ne è della persona. Quindi le interpretazioni sarebbero diverse, ma poi delle cose molto più belle le avete già. Delle altre cose che si potrebbe dire per quel gusto che ha di pensare alle cose sulle quali è tornato da poco, anche a parlarne attraverso tutto. Una cosa che si potrebbe dire interessante nel discorso di Vito è che non c'è bisogno di fondare sacralmente in fondo il potere, diciamo, nei tempi umani, anzi tutto ciò è stato necessario, cioè, ovviamente nella storia dell'umanità, perché la vera fondazione provvidenziale, divina, diciamo, di ogni costituzione, quindi anche di quelli politici, avviene appunto nella dimensione della storia. Io penso che sia sempre una delle pagine più illuminanti, se non stesse questo prima, che ci portano alla vita natura di tutti i problemi di questo problema. Alcune delle pagine sono quelle di Agorassi, nelle quali abbiamo parlato diciamo, di questo legame dell'eterno vero, della vis vera, no? che resta come scintilla sepolta nella. E allora o l'altro il discorso sulla persona lo si recupera in questo modo, allora la stessa storia può essere vista diciamo, come sviluppo diciamo, di una latenza originale che tende a spiegare se stessi. Questo c'è un modulo, un noccio che studiamo in modo aristotelico, in aristotelismo, tutto quello che deve essere proprio dinamizzato, che poi è la tradizione nella quale siamo coinvolti, come dicevo, quindi non parlare delle cose dal punto di vista storico. Di parlarne dal punto di vista invece poi lo storico se lo si può fare in diversi modi, allora abbiamo un processo pure del linguaggio, della filosofia del linguaggio, dell'unitarismo per esempio contemporaneo, diciamo, statunitense, anglo-americano, o così, ma ci troverebbe molto lontana da questo discorso, oppure altri linguaggi che sono più vicini diciamo, alle nostre consentanità e per le quali potremmo in un qualche modo assumere questa lezione, direi, insomma, che non può essere con te così di investire. Mi sembra che purtroppo parlare anche di diciamo io che devono essere con altre così via. È interessante per vedere che nella modalità delle nostre formazioni, per così dire, no? E alla fine diciamo con una tendenza, che perfino non è stato casuale, parlando di investire a proposito dei libri propri. Alla fine diciamo, abbiamo scoperto piccoli diciamo, elementi delle nostre biografie di là, ci siamo visti a parlare del nostro rapporto con il santi. E beh, poi tutti che al diciamo, di quelle delle giurisdizioni, delle fedi e così via, diciamo, per quello che emerge, è il riconoscimento in fondo, diciamo, della perversità comunque, che ognuno di noi, anche in quelle traiettorie che siano, per così dire, diciamo, esteriormente definibili come l'arte, diciamo, la perversità che è elemento fondativo della dimensione, che si scoprono, che si siano reso molto consapevoli e anche contento, diciamo, ci hanno indotto, per così dire. E questo fa riferimento appunto a questo fatto qua, che non si può non essere in qualche modo coinvolti. E questo ci riporta anche al problema di una fondazione della politica. Io chiuderei a proposito della democrazia, non quella citazione molto bella, ma un'altra citazione. Habermas ha scritto da qualche parte, diciamo, che si sono sciolti, per così dire, i cuscinetti di grasso della democrazia. Che cosa sono i cuscinetti di grasso? L'ho letto da qualche parte, in una pagina di qua. Significa sostanzialmente che una buona parte del vivere sociale, dell'agire sociale, io sono la forma di credenze intorno, che sono di tipo, diciamo, pregiudiziale, sono preconcezioni. Cioè c'è una corrente calda, un alimento, così dire, no? Diciamo, del nostro vivere, nel senso del convivere, che nasce dalla presenza di correnti calde di valori che possono anche essere quelli nei quali poi noi non ci riconosciamo. Tra questi valori ci sono appunto, diciamo, le virtù, diciamo, della carità, dell'umiltà, che per mille versi di secolarizzazione, sono attraverso una grande letteratura, hanno finito con la diventare tradizioni totalmente altre, no? È inutile fare i nomi di Lento, di altri e così via. Allora il grosso problema, per così dire, è di sentirsi in questo momento in una condizione nella quale, per così dire, queste correnti calde si sono tenute come prosciugate. E allora, però, se questi sono fenomeni di carattere storici, la fondazione, per così dire, non storica del problema, non ci può aiutare molto, perché è una fondazione di tipo, per così dire, formale, razionalistico, è una fondazione di tipo pienamente metafisico, non è il titolo che ci dice che c'è un legato originale, e questo ci aiuta. Ma se sono le correnti calde della storia, nutrite di cristianesimo che hanno alimentato anche le ideologie non cristiane secolarizzate, però ricche della potenza, per così dire, della loro fiducia nella persona, anche se questa persona è diventato, per così dire, il compagno, oppure così via. Allora, che cosa possiamo fare noi di fronte, diciamo, alle correnti della storia, se non rifarci consapevolmente gli attraversatori della storia per trarne tutte le possibili almeno e riprodurre da capo questi valori nella loro consapevolezza? Proprio questa fonte di contraddizione che noi dobbiamo riproporre i valori nati nell'unità della stagione dell'unità. E non lo possiamo fare con una doppia verità libertina, ma dobbiamo farlo riproducendo per cui testimoniando che esistono ancora le verità. E in fondo facendo nostra, se vuoi, anche un'idea della persona, anche se non ci appartiene dal punto di vista metafisico. Perché sappiamo che siamo passati attraverso questa donazione, questa dazione di senso dell'individuo come persona, questa del cristianesimo, e che ha attraversato come corrente calda tutta una serie di cose. Perché mi rendo conto forse di essere diventato un profilo un po', come dire, diciamo, un po'. Anche fatti, territori e così via, però se un libro è capace anche, diciamo, pubblicamente, persone pudiche, diciamo, meno pudiche, credo che tutto sommato forse sia un altro risultato di me. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Desacralizzando la visione dal basso, io dico che mi sento più vicino del tono. Mi scuso per buona ma si sarebbe detto, ecco, ma proprio in questo senso, cioè che mi sono stupito vedendo certe cose, proprio che il mio camminato era su terra, insomma, ecco, cioè, nel senso che probabilmente sono forse. Cioè, oltre alla presunzione che forse ho avuto, ma è un tipo di ingenuità forse mi ha permesso di camminare sul filo di queste cose, appunto, che sono belle, qualche volta non vedendo, non cadendo mai nella buca, forse l'unica cosa che mi è riuscita è di non cadere mai nella buca, ecco. Però certamente, insomma, ecco, la frase centrale per me è il seminario di oggi, di cui sono grato a tutti, rimane quella dello strumento, insomma, ecco, insieme a cose, cioè se questo serve come strumento, allora va bene, insomma. per questo mia mancanza di capacità teoretica che è talmente evidente anche nel libro, sono rimasto sull'orlo così, guardando poi là fin dove arrivava lo Stuart, insomma, delle tutte, insomma, ecco, ho sempre camminato su questo filo di storia costituzionale, insomma, quindi, particolarmente sul versante della riflessione teoretica, insomma, mi sento proprio buonissimo. Quelle cose che sono venute fuori sono bellissime e proprio così, e sono già un nuovo, insomma, ecco, mi permetto di essere in qualche modo un po' presuntuosamente fiero, nel senso che è bello, insomma. L'unica cosa che volevo sottolineare per concludere, un istante solo, è questo, che mentre appunto non sono affatto, così, sono pieno di dubbi, di problemi, eccetera, una cosa che penserei di essere certo, cioè riguardo all'interlocutore di questo volume, che non è appunto più quello di 30 anni fa, non sono più io. Cioè c'è ovviamente una continuità, cioè di fronte alla cultura laica e cattolica del nostro paese, a me sembra davvero che, almeno come posizione spirituale mia, di essere in un'altra, yes, in un'altra area, yes, è così. Cioè pur avendo dentro tutto quello, c'è, tutti i nostri ricordi, c'è, anche per cui ti richiamare molto concreti, mi sembra che in qualche modo insomma, stiamo tutti fuoriuscendo, insomma. E quindi anche, cioè, io vedo questo momento molto bene, ma oggi andiamo in discorsi così. Però è bello, grazie.